Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespo. Siamo pronti per dare il via al soundcheck di oggi, puntata numero 87 della nostra prova del suono. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento alla grande voce, quella che io considero forse la migliore cantante soul degli ultimi anni, ovvero Leila Hathaway, figlia del grande Donny Hathaway, e probabilmente proprio per questo motivo ha meritato l'appellativo di First Daughter of Soul, cioè la prima figlia del soul, che purtroppo all'età di 10 anni perde suo padre. Padre suicida. Leila Hathaway, sua figlia Kenya, si avvicinano prestissimo alla musica, studiano musica insieme. Leila Hathaway entra alla Berklee School of Music di Boston, dove si diploma e nel 1990 realizza il suo primo album. Ne ha registrati soltanto 6 in carriera, preferendo un'attività negli ultimi anni più vicina a quella della musicista, special guest e interprete per le grandi produzioni discografiche, ma anche partner di grandi artisti in alcune delle tournée più importanti del mondo. Ha lavorato con tutti, con Grover Washington Jr., ha lavorato con i Take Six, con Mary J. Blige, con Marcus Miller, lavora per la GRP Records di Tommy Lee Puma, lavora con Russian Patterson, fino ad approdare alla giovane band Snarky Puppy, perché il leader, il bassista Michael League, la vuole assolutamente protagonista con lui sul palco per realizzare questo album spettacolare dal vivo intitolato Family Dinner, dove Leila Hathaway come special guest interpreta un successo di David Foster e Brenda Russell intitolato Something. Leila Hathaway, protagonista assoluta del soundcheck di Radio 24 di oggi. Ooh, it's something. Il suono degli Snarky Puppy da Brooklyn, New York City, con la partecipazione di Leila Hathaway da questo progetto live intitolato Family Dinner. Non perdete l'occasione di acquistare questo CD, ma lo trovate senz'altro anche su iTunes. Leila Hathaway, la grande voce del soul, è protagonista del soundcheck di oggi qui su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Suono inconfondibile del basso elettrico suonato da Marcus Miller, eccellente producer discografico pluripremiato, che più volte ha richiesto la partecipazione della bravissima Leila Hathaway nei suoi album. Leila Hathaway, protagonista del soundcheck di Radio 24, quest'oggi, come dicevamo, ha preferito un'attività da musicista a quella di star patinata appartenente a una multinazionale, magari con un bellissimo contratto, ma da musicista in questo momento si sta levando certi spizi, partecipando così alle migliori produzioni discografiche e a tournée di grandissima importanza. Leila Hathaway approda a Marcus Miller, entra nelle produzioni di questo eccellente musicista, che riesce anche in un'impresa quasi titanica. Infatti Leila Hathaway si era sempre rifiutata di cantare brani tratti dal repertorio del papà, ma ci riesce Marcus Miller, che la coinvolge in studio di registrazione mettendola a disposizione dei bravissimi TXX, e quindi Someday We'll All Be Free, brano scritto da Donny Hathaway, viene rivisitato dalle voci meravigliose dei TXX, special guest Leila Hathaway, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E la puntata di oggi del nostro Soundcheck è dedicata completamente alla voce infinita, meravigliosa, caldissima di Leila Hathaway, la migliore voce soul degli ultimi anni, che come dicevamo ha registrato soltanto 6 album, preferendo un'attività da musicista freelance. Leila Hathaway la ascoltiamo adesso da un album, da un suo album del 2004 intitolato Outrun, una composizione scritta per lei da MC Flowers, si intitola Better and Better. Leila Hathaway al sound check. Chiudiamo così questa puntata del soundcheck dedicata alla voce di Leila Hathaway con un album importantissimo, un album che ha vinto il Grammy Award come migliore produzione R&B nella passata stagione, quello realizzato da Robert Glasper con i suoi Experiment, intitolato Black Radio 1, ultimamente è uscito anche il volume secondo, lo abbiamo presentato in anteprima proprio qui al soundcheck, sempre con la presenza della bravissima Leila Hathaway, che in Black Radio 1 interpreta a suo modo una canzone che ha portato molto fortuna a Sade. Il brano si intitola Cherish the Day. Robert Glasper, Leila Hathaway al soundcheck. A tutti voi buona giornata, buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo, restando sempre in contatto con le news, l'informazione e i programmi di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica.